mi sembra aggiungere quel momento in cui devo scoprire il mio bel nome, quell'amoroso fuoco che mi va distruggendo a poco a poco. Thank you.